Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e benvenuti all'11ª puntata dedicata alla lettura del romanzo Extremis, un capitolo alla volta. Nella scorsa puntata abbiamo parlato del cosiddetto bestiario di Notturnia e di come ho tentato di essere il più possibile originale, dove possibile, utilizzando creature diverse o comunque non identiche a quelle che già i lettori conoscono. Quando questo non era possibile e comunque non aveva senso, ho modificato quantomeno i nomi. Già, i nomi. Oggi volevo un po' soffermarmi proprio su questi ultimi, che sono, a mio giudizio, un elemento fondamentale per fare in modo che non venga meno la sospensione dell'incredulità, cioè quel patto non scritto da scrittore e lettore, che permette a quest'ultimo di lasciarsi trasportare attraverso vicende fantastiche e fuori dal normale. Su questa sospensione mi riprometto di tornare in un'altra occasione per approfondire il concetto, che ritengo importantissimo, ma quello che mi preme oggi è ricordare che sia come un fragile oggetto di cristallo, e basta poco, pochissimo, inclinarlo. Un modo è usare i nomi sbagliati. Prima che essere uno scrittore sono un lettore e vi assicuro di aver scartato a priori romanzi nella cui sinossi leggevo nomi improbabili o inadatti. Che nomi uso nei miei romanzi, vi chiederete? Intanto la regola dalla quale cerco di attenermi sempre, perlomeno per i personaggi principali, è quella della brevità. Un nome corto, più facile da leggere e soprattutto da ricordare, quindi rende meno faticoso seguire la trama e affezionarsi al personaggio. Tanto per citarne alcuni di Notturnia: Diana, Tom, Eliel, Arla, Rord, Vama, Shear. Ma anche nei miei romanzi di spionaggio i protagonisti erano Sara, Robert, Pitt. Come vedete, tutti nomi corti o cortissimi. Una volta sancito il principio della brevità, l'altro punto fondamentale è che i nomi devono essere credibili, cioè suonare realistici. Per i personaggi di un romanzo ambientato nel nostro mondo, anche in epoche diverse dall'attuale, quello che faccio è cercare su internet elenchi dei nomi più diffusi. Ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le popolazioni, anche estinte. Spesso basta cercare tra i 30-40 nomi e cognomi più diffusi e tentare di accoppiarli finché non si trova un'associazione che ci piace. In alcuni casi nome e cognome si scelgono anche su altre basi, oltre a quelle di un suono giusto. Thomas Travers ha questo cognome che significa attraversare, perché è colui che attraversa appunto la soglia per Notturnia. Scarlett Faulkner si chiama così perché volevo che il suo nome potesse abbreviarsi in Scar, che significa cicatrice. Stesso discorso per Cesar Braga, detto Drake. Il problema vero si ha quando i nomi si devono inventare di sana pianta, perché i personaggi vivono in un mondo inventato. È qui che a volte si trovano dei veri e propri orrori, in genere perpetrati da autori alle prime armi. Il problema è che bisogna creare dei nomi che funzionino da soli, ma che siano anche inseriti in un contesto omogeneo. Tanto per capirci, un nome italiano è diverso da uno francese o da un inglese. Quando lo sentiamo, anche non conoscendolo, capiamo qual è la sua origine. La stessa cosa deve avvenire nel nostro mondo di fantasia. Per esempio, i negromanti di Notturnia e le loro creature si chiamano Vatu, Vama, Rordu, Dogur, Usmeli, Latau. I Silvani, Eldan, Erlen, Flolen, Jairin, Ilerian, e così via. Il modo più semplice per creare dei nomi è quello di usare dei generatori di nomi, programmini facilmente reperibili su internet, che hanno molte caratteristiche interessanti. Alcuni generano nomi che suonano in una certa maniera, altri invece permettono di creare nomi seguendo certe regole, con una lunghezza massima o finire con un certo suffisso, eccetera. Bene, anche oggi siamo andati piuttosto lunghi. Possiamo passare alla lettura dell'11ª puntata del romanzo. Un ringraziamento e un saluto agli ascoltatori di Radio Big World. Capitolo 11. Il generale Ustia aveva passato buona parte della notte a consultarsi con i suoi consiglieri e con i negromanti che comandavano il battaglione di risorte. Nella sua tenda c'era stato un viavai di persone che era cessato solo qualche minuto prima, lasciandolo solo con i suoi pensieri. L'utilizzo di obiezioni da parte degli evocatori aveva sconvolto i suoi piani iniziali e rischiava di mettere a rischio un possibile successo in quella battaglia. La tecnica di individuare i circoli che li controllavano e di inviarvi gruppi di fatua con ogni probabilità non avrebbe potuto essere ripetuta. Sheltur non era uno stupido, e lo era ancora meno quel verme strisciante di Nerroth, il suo consigliere e sovrintendente del suo esercito. Con ogni probabilità li avrebbero protetti meglio, tanto a rendere difficile, se non impossibile, colpirli alle spalle. Aveva passato ore estenuanti alla ricerca di nuove tattiche di battaglia ed essere esausto. Ma qualcosa gli tornava in mente di tanto in tanto, affiorando appena nella sua consapevolezza. il potere oscuro che aveva percepito quando stava tentando di rintracciare i circoli, un potere immenso, seppur inerte. Si domandava chi o cosa potesse essere. La sua esperienza neppure Vama, che era l'uomo più potente che conosceva, ne possedeva così tanto. All'inizio aveva pensato che potesse essere qualcuno dell'esercito degli evocatori, ma ora non era più convinto. Shaltul non avrebbe esitato neppure un attimo a mettere in campo ogni risorsa per sconfiggerli. No, più ci pensava più aveva l'impressione che fosse qualcuno che era lì per caso, che non aveva preso parte alla battaglia. Qualcuno che forse neppure sapeva di avere un potere così enorme dentro. Ma chi? Doveva convocare Rorg, il capo degli spie di Vama. Per quanto odiasse l'ombra, lui era l'unico in grado di aiutarlo. Stava per dare una voce alla guardia che presidiava l'entrata quando colse un movimento nell'angolo più buio della sua tenda. Il maledetto. Era stato lì tutta la notte ad ascoltare le sue difficoltà tattiche per poi riferire tutto all'uomo. Strinse i pugni che con talmente tanta forza frenò che scricchiolarono. Calmo, ostia, calmo, si ripeté. Rorg, disse, dissimulando l'odio profondo che lo pervadeva. Avevo giusto bisogno di parlare con te. L'ombra si materializzò emergendo dall'angolo della tenda. I suoi occhi neri senza pupilla lo fissarono intensi, brillando sul viso grigio. Si sussurra che hai problemi a gestire la battaglia, sibilò Rorg avanzando verso di lui come un serpente che si avvia a ipnotizzare la sua preda. Vama non sarà felice di sapere dei tuoi stenti. La situazione è sotto controllo, ribatté Ostia, ostentando una sicurezza che non possedeva. Come ho potuto sentire, abbiamo concordato una nuova strategia per la battaglia che avrà bisogno di avere luogo a terra, a breve. L'ombra annuì, senza cambiare l'espressione di chi sta osservando con interesse di un vecchino un uomo già morto. Il generale distolse lo sguardo e lo lasciò vagare verso l'ingresso della sua tenda, dal quale cominciò a filtrare una tenue luminosità grigiastra. Il giorno stava arrivando e con esso la battaglia che avrebbe deciso le sue sorti. Doveva allontanare Rorg da lì. Ieri ho sentito una presenza, disse, sperando che una strategia funzionasse. Qualcuno era vicino a noi e aveva un potere oscuro enorme. Sarà stato qualche evocatore, rispose l'ombra con una sua voce affilata, alzando le spalle. Forse proprio chi ha richiamato le abiezioni che hanno fatto a pezzi il tuo esercito. No, avrebbe bluffato ancora un po', ma era necessario. Era qualcuno che non fa parte né del nostro esercito né di quello degli evocatori. Qualcuno che sta attraversando il nostro territorio a tua insaputa, Rorg, e di Vama. L'ombra esitò. Era chiaro che era stato colto di sorpresa. Forse pensava che Ostia stesse mentendo, ma non ne poteva essere certo. E se fosse stato vero quello che il generale aveva affermato, nulla lo avrebbe salvato dalle idee del Signore dei Morti. Sei sicuro? Chiese con tono velenoso, ma guardando. Le mie sorelle ombre non hanno avvertito nulla, e io neppure. È possibile che l'enorme quantità di potere scuro in gioco in questi giorni vi abbia confuso, rispose Ostia, più coincidente. Credo che faresti bene a controllare. Rorg dormì, stizzito. Il seme del dubbio si era insinuato nella sua mente, e forse il timore di aver commesso uno sbaglio lo avrebbe reso più cauto nel suo rapporto a Vama. Cominciò a svanire nell'oscurità, fissandolo con i suoi inquietanti occhi senza pupille. L'esercito degli evocatori attaccò non appena il buio cominciò a impallidire nel liquore coalescente che era l'alba di notturne. Le legioni demoniache cominciarono l'assalto con forza e decisione, impegnando a fondo le avanguardie dell'esercito di Vama, che presto dovettero arretrare su una nuova linea di difesa. I necromanti li spronavano continuando a salmodiare i loro rituali, cercando di mantenere una catena ininterrotta alle spalle del risorto. La battaglia infuriò per l'intero giorno, impedendo a Rorg di cercare le tracce del passaggio dei quattro. L'ombra diffidava del generale Ostia, il quale percepiva l'odio nei suoi confronti, ma non poteva permettersi di fallire. Attese la fine dei combattimenti. Le poche abiezioni rimaste e la mancanza di sorprese per il loro utilizzo avevano reso molto più equilibrato lo scontro, e la giornata di battaglia finì senza vinti né vincitori. Quando le tenebre calarono di nuovo e gli eserciti si furono ritirati dietro le proprie linee, Rorg cominciò a perlustrare le ultime pendici della selva Atra, a sud dell'accampamento. Era più o meno lì che Ostia aveva detto di aver percepito questa fantomatica persona dotata di un così enorme potere scuro. Se avesse scoperto che Ostia gli aveva mentito, per lui non ci sarebbe stata una catacomba abbastanza profonda per nascondersi. I suoi occhi gli permettevano di vedere al buio come un uomo avrebbe visto in piena luce. Anzi, la sua familiarità con le tenebre era molto maggiore. Perlustrò le ultime colline della selva con cura, finché non trovò qualcosa di strano. C'era un piccolo spiazzo riparato dove con tutta evidenza almeno tre persone erano rimaste nascoste e avevano assistito alla battaglia. Annusò l'aria al lungo. Quattro persone. L'aria ancora vibrava del potere oscuro di uno di loro. Non c'erano dubbi, Rusty aveva ragione. Questo lo poneva in una situazione difficile. Il controllo dei confini del regno di Vama era delegato a lui e alle sue sorelle Randall. Pur con tutte le possibili scusanti in una situazione straordinaria come quella della battaglia, lui aveva fallito. Si guardò attorno alla ricerca di qualche prezioso elemento, mentre nella sua mente acuta esplodeva un dubbio. Era possibile che non fosse un semplice caso, ma che ci fosse una precisa volontà dietro la contemporaneità dell'attacco e il passaggio del gruppo. Anzi, più ci rifletteva, più si convinceva del fatto che la battaglia non fosse un diversivo. Chiunque fossero, era chiaro che Shaltulli aveva infilato nel territorio dei Nigromanti con una spina nel fianco di Vama, e loro c'erano cascati. Quando capì che non c'erano altri indizi da trovare, si diresse velocemente verso l'accampamento. Lo raggiunse, ma esitò a lungo prima di recarsi verso la tenda di Ustia. Se avesse ammesso il suo errore, il generale avrebbe fatto in modo che Vama lo punisse prima che lui potesse porvi di meno. No, avrebbe inseguito i quattro e li avrebbe riportati indietro al suo padrone, vivi o morti. Non ci vorrà molto per capire in quale direzione fossero andati. Se provenivano dalla selva Atra e avevano attraversato le linee del suo esercito, non potevano che dirigersi verso nord. Si diresse verso le interminabili file dei risorti immobili nelle tenebre e le oltrepassò. Aveva un giorno di ritardo, ma non gli sarebbe sfuggito. Il gruppo abbandonò la piana desolata a metà del secondo giorno di cammino. Il terreno arido e quasi desertico lasciò il posto a delle colline punteggiate qua e là di cespugli di rovi, le alture neglette. Non offrivano la stessa protezione della selva Atra, ma Tom si sentì di un tratto meno vulnerabile. La selva infatti avvolgeva chi la attraversava con un abbraccio asfissiante e quasi morboso, ma era impenetrabile allo sguardo. La piana gli dava la sensazione di mercé completa alla vista di Tom. I suoi occhi si posarono su Diana, che lo precedeva di qualche metro. La ragazza non aveva più avuto crisi, ma sembrava ogni giorno un po' più spenta. Era come una candela che bruciava lenta, ma che si stava inesorabilmente consumando. Aveva notato che chiacchierava spesso con Eliel e che ogni tanto gli lanciava lunghe occhiate furtive, anche se lui non sembrava accorgersi delle sue attenzioni. Immaginava fosse normale, Diana era una ragazza ed Eliel era decisamente attraente. Sfece quegli incredibili occhi turchesi che splendevano come acquamarina anche nel buio. Sperava che questa, che era tutta l'aria di una infatuazione adolescenziale, contribuisse a distrarla dal suo male e credesse un po' di sprone. Era immerso nelle sue riflessioni quando i suoi occhi si posarono su un cespuglio spinoso di color grigio antracite. Semisepolta alla sua base, notò una roccia con sopra una macchia di colore rosso scuro, rugginoso. Incuriosito, si chinò a raccoglierla, la prese in mano e notò che sul lato che era rimasto sepolto la macchia. Sangue vecchio, senza alcuna possibilità di dubbio, copriva un simbolo rozzamente inciso. In quel momento Arla si girò verso di lui e impallidì. «Dove l'hai preso?» chiese Brusca, porgendo la mano. «Era lì sotto», rispose Tom, sorpreso dalla reazione della donna, e indicò il cespuglio mentre le allungava la pietra incisa. Arla la prese come se avesse paura che mordesse, mentre anche lei tornava indietro e osservava in silenzio. «Non sapevo che si fossero spostati qui», mormorò la donna. Questo rende le cose maledettamente pericolose. A chi ti riferisci? Chiese Diana, leggendo la preoccupazione in viso. Chi è che si è sposato qui? Divoratore, rispose Diana. Arla posò lo sguardo su di lui, forse domandandosi come facesse a saperlo. Poi dovette decidere che in quel momento non era importante. I divoratori sono creature delle tenebre, disse poi. Al contrario delle fatue, non sono territoriali, e Vama ha rinunciato a ruolarli nel suo esercito. Troppo deboli? Chiese Tom, speranzoso. Troppo selvaggi? Arla scosse la testa. Impazziscono quando vedono il sangue, e a quel punto sono pericolosi per chiunque, anche per gli altri divoratori e per i negromanti che tentano di controllare. Sono perennemente in bilico tra questo mondo e l'oltremondo, ma al contrario di qualsiasi altro essere negromantico, non desiderano tornare dall'ultima madre, anzi, bramano di continuare la loro esistenza qui. Per farlo devono bere sangue degli esseri umani e cibarsi della loro carne. Vivono in branchi, proseguì Eliel, per questo non possono stare a lungo nello stesso territorio. Arrivano, sterminano chi ci vive e poi danno, dopo un lungo letargo mistico, si spostano per portare la devastazione altrove. Forse queste pietre vecchie, provò a ipotizzare Diana, spaventata dalla descrizione che aveva fatto il ragazzo. Può darsi che non siano più qui. No, quel simbolo sta proprio a significare che sono nel letargo in questa zona. Gli occhi della donna dardeggiarono attorno come per penetrare le colline e vedere oltre. Lo usano come sistema d'allarme. Se qualcuno attraversa la zona, come terminare la frase che Arla aveva iniziato, da qualche parte al di là della collina, alle loro spalle, si levarono degli ululati. Erano suoni agghiaccianti, come Tomidiano non ne avevano mai sentito in vita loro. Si capiva che non potevano essere animali a emettere, carichi di odio e violenza come loro. «Ci hanno sentito!» esclamò Riera, rovinando la spalla. «Che facciamo ora?» chiese Tom, terrorizzato da quelle grida spaventose. «Dobbiamo fuggire!» Arla lo guardò come se stesse soppesando lui e Diana, poi scosse la testa. «Ci prenderebbero», disse, sfoderando la spada a sua volta. Si guardò freneticamente attorno, finché il suo sguardo si postò su qualcosa che attrasse la sua attenzione. «Salite da sopra», disse, indicando una grande roccia a mezza altezza sul fianco della collina. Una fessura larga a mezzo braccio si intravedeva sul lato dove la pietra era adagiata a terra. «Infilatevi la sedia dentro e non muovetevi per nessun motivo». Tom si affrettò a ubbidire, come aveva imparato a fare quando Arla usava quel tono. Aiutò Diana a salire verso la roccia, poi le andò dietro. Eliel invece non li seguì e rimase accanto ad Arla con la spada sguainata. I due videro che la donna si avvicinava per dare due diti qualcosa, ma non colse le sue parole, né la risposta del ragazzo. Le sembrò stizzita, ma non fece in tempo a dire null'altro. I latrati agghiaccianti investirono le loro orecchie con violenza inaudita. I divoratori li stavano per raggiungere. Arla ed Eliel cominciarono a fuggire seguendo due direzioni diverse, e dopo pochi istanti sparirono dalla loro vista. Tom e Diana rimasero immobili nella stretta fessura, terrorizzati anche solo dal respirare. Le urla aumentarono di intensità, penetrando nei loro timpani come schegge illuminate, e Diana cominciò a tremare violentemente. Poi apparvero. Erano un gruppo di 7 o 8 che avanzavano veloci, lanciando le urla strazianti che laceravano l'aria. Tom li osservò dall'alto, inerte come se si fosse trasformato in pietra. Fisicamente assomigliavano ai risorti, nel senso che sembravano essere cadaveri riportati alla vita. Avevano la pelle marcescente che copriva a stento la putrida carne di colore marrone, mentre gli occhi lattei sembravano perforare la pietra e vedere lontano. Digrignavano con violenza i denti appuntiti che spargevano le labbra marce, attraverso le quali colava un denso liquido nerastro. Ma c'erano varie differenze che saltavano agli occhi, si muovevano molto più veloci dei risorti. Chi sulle gambe, chi a quattro zampe, avanzavano con movimenti convulsi e frenetici. Sembravano essere anche molto più forti. Le mani artigliavano il terreno lasciando dei solchi, sospinte da tendini potenti, che, nei punti dove la carne era stata consumata, si potevano scorgere anche da lontano tendersi come cavi. Alla loro vista Diana sobbalzò dallo spavento, e Tom fu costretto a mettere una mano sulla bocca per evitare che il suo grido potesse essere udito. Passarono sotto la roccia con furia, assordandoli per le loro grida. Si fermarono a osservare le tracce e Tom temette che quelle lasciate da lui e Diana permettessero ai divoratori di individuare il loro nascondiglio. In quel caso sarebbero state impossibili da fuggire, in trappola come mosche di suona ragnatela. Dopo aver lanciato versi culturali da far accamponare la pelle, si divise in due gruppi, ognuno dei quali seguì la direzione di uno dei due fuggitivi. Tirarono un sospiro di sollievo. Quando gli ululati si persero dietro le colline, Tom e Diana si guardarono in silenzio. Tom lesse nello sguardo angosciato della ragazza la stessa domanda che lo stava tormentando. Cosa avrebbero fatto da soli? La pesante porta di legno, ricoperta di placche di bronzo, scricchiolò sui suoi taccardi. Una lama di luce, giallonda e tremolante, tagliò l'oscurità che regnò nella segreta. Il prigioniero non alzò neppure il capo. Non lo faceva mai. Il carceriere entrò e infilò la torcia che teneva in mano in un anello sulla parete. Poi si fece da parte e lasciò entrare uno schiavo con una ciotola in mano. La guardia si apprese le chiavi alla cinta e appoggiò le spalle al muro. L'armatura tintinnò a contatto con la pietra. «Sbrigati!» vogliò il carceriere. «Vedi non metterci tutto il giorno!» «Sì, Rignard!» mormorò lo schiavo, chinandosi veloce sul prigioniero. Rignard fece un gesto di impazienza, ma non disse altro. Non capiva tutte quelle precauzioni che venivano prese da anni nei confronti di quel vecchio. La cosa andava avanti da quando lui era lì, ma con ogni probabilità si protraeva da molto prima. Sputò per terra e si passò una manica sudice sulle labbra. Poi fece una smorfia. No, non lo capiva proprio. Il vecchio aveva gambe e braccia fissate al muro con delle catene di uno strano metallo luminoso dai riflessi blu. Erano talmente corte da impedirgli di alzarsi in piedi, unire le mani o anche solo portarle alla bocca. Per questo ogni giorno si ripeteva quel noioso rituale. Lui o un suo compagno a rotazione dovevano accompagnare uno schiavo alla cella. Questi lo cibava riempendo un cucchiaio di legno con una densa sbobba, sempre la stessa da quando poteva ricordarsi, e portarglielo fino alle labbra. Il vecchio sorbiva con lentezza e sempre senza aprire gli occhi. Poi il gesto si ripeteva, ancora e ancora, finché la ciotola era vuota e lui non aveva ingoiato tutta la brodaglia che veniva spullata giù per il tutto. Poi si passava alla pulizia. Un sorriso gli taglia il viso, scoprendo la sua dentatura rada e marcia. Il vecchio puzzava dalle sue feci da quando lo conosceva. Tutto quello che lo schiavo faceva era raccogliere nella stessa ciotola dove aveva portato da mangiare gli escrementi che giacevano attorno al corpo appassito del prigioniero. Non sapeva cosa aveva fatto per meritarsi una punizione così, ma certo Pama gli aveva creato un inferno in terra, di cui lui era l'unico dannato. La fortezza della solitudine era infatti quasi deserta da anni, rendendo ancora più calzante il proprio nome. La guerra del buio aveva fatto sì che i prigionieri andassero via via diminuendo fino a sparire. Erano molto più utili da morti che da vivi. Quel vecchio, invece, era segregato lì da decenni, dimenticato dal mondo, maledetto a vivere una vita degradata e distente. Al buio, incatenato al punto di non potersi neppure muovere, divideva la sua cella con i topi e con i suoi stessi escrementi. Sì, Bama doveva odiarlo con tutta la sua anima nera. Gli avevano detto che era un prigioniero speciale, che era un grande mago, ma Rinear non ci aveva mai creduto. Quel vecchio non aveva alcun potere. Se l'avesse avuto, l'avrebbe usato per fuggire da quell'inferno, o anche soltanto per porre fine al suo martirio, uccidendosi. No, non poteva essere un mago, anche se l'avevano incatenato con quelle strane catene di metallo luccicante e freddo con il ghiaccio. Sotto quella cascata di capelli bianchi, che nessuno si era mai curato degli armi da quando era prigioniero, c'era solo un vecchio, un uomo debole, che non parlava mai e non apriva mai gli occhi, come se non ci fosse più con il cervello. Oppure come se vivesse in una realtà immaginaria che si era creata per evitare di impazzire. Rinear alzò le spalle. In qualsiasi dei due casi, i suoi sentimenti nei suoi confronti erano contrastanti. Da una parte non poteva evitare di provare una sorta di ammirazione per un uomo che nonostante tutto non si era spezzato, non si era lasciato andare fino a morire. Dall'altra, lo odiava per lo stesso motivo. Finché il recluso era in vita, lui era costretto a rimanere alla fortezza della solitudine, il prigioniero lui stesso del suo servizio. Riprese la torcia in mano quando lo schiavo si alzò e si allontanò dal vecchio. Lo scrutò per un'ultima volta prima che le tenebre si richiudessero su di lui per un altro interminabile giorno. Il vecchio aveva di nuovo il capochino e giaceva abbandonato a terra. Le sue energie residue dovevano essere tutte concentrate per evitare di impazzire, ma non credeva che ci sarebbe riuscito. Aveva notato già da un po' che mangiava sempre meno e con fatica crescente. Qualche volta non riusciva a assorbire neppure la broda che lo schiavo gli porgeva con il cucchiaio. Il vecchio stava morendo e, se l'esperienza dei prigionieri sul punto di morire gli insegnava qualcosa, il processo sarebbe diventato sempre più veloce. Sputò di nuovo a terra, prima di serrare la pesante porta della segreta. Un giorno di meno. Erano passate ore da quando i divoratori erano spariti dietro le colline e gli echi dei loro ululati si erano lentamente spenti. Tom e Diana erano rimasti immobili senza avere il coraggio neppure di scambiarsi una parola. Di tutti gli esseri che avevano fin qui avuto la sventura di incrociare, questi erano quelli che li avevano maggiormente terrorizzati. La brama di sangue che traspariva dai loro occhi senza pupilla, il suono agghiacciante loro atrate, le zanne affilate come da sole. Calò l'oscurità e né Arla né Eliel avevano fatto ritorno. Non sapevano come giudicare il fatto che neppure i divoratori si fossero rivisti. Tom si spostò un po', tentando di muovere le gambe rigide dall'immobilità. «Cosa facciamo adesso?» chiese Diana, dando voce dubbi di entrambi. «Non lo so», rispose Tom, «non lo so proprio. Pensi che li abbiano uccisi?» La voce della ragazza si inclinò pronunciando l'ultima parola. «No, non credo», tentò di essere convincente possibile. Ma la sua voce suonò fasulla persino a lui. «È probabile che li abbiano seminati, che debbano fare un lungo giro per tornare da noi. Forse non si muoveranno ogni giorno. E se non dovessero farcela?» Gli occhi di Diana si riempirono di lacrime con la ragazza che appena stento. «In quel caso continueremo da soli». Tom tirò fuori la mappa che aveva trovato nella rocca del tempo. «Siamo vicini e al di fuori della terra selvatra penso di essere in grado di orientarmi meglio». La ragazza annuì e si accoccolò appoggiando la testa sulle sue ginocchia. «Non pensi che ci abbandonerebbero, vero?» chiese quando ormai Tom non riuscì a più neppure a scorgere una fitta oscurità. «No, penso di no». Tom si chiese se stava dicendo la verità. «Sì, in fondo lo pensavo davvero». «Arla, spero che tu possa aiutarla una volta che sarai in maniera». Si interruppe, pentendosi di aver affrontato quell'argomento. Diana non voleva diventare nera. «Una volta che sarei guarita, ed Eliel ci è grato per avergli salvato la vita. Siamo diventati una sua nuova famiglia, in qualche modo. Credo sia affezionato a noi». Sentì che il collo di Diana si irrigidì un attimo, poi si rilassava subito dopo. «Anche a me?» chiese, rendendosi conto subito dopo dell'implicazione delle sue parole e cercando di correggersi. voglio dire, non che mi interessi veramente, così per curiosità. Direi soprattutto a te, replicò Tom con la massima serietà, ma sorridendo non visto nel buio. Diana era in pericolo di vita, in un mondo alieno governato da leggi sovrannaturali, inseguita da nemici vitali, nonostante tutto ciò, nella sua mente c'era spazio per un'infatuazione. E accarezzò i capelli con delicatezza, urlandola finché non sentì il suo respiro farsi regolare. Lui non aveva sonno. L'immobilità della giornata e la paura che ancora non riusciva a scacciare gli impedivano di assopirsi. Si domandava cosa sarebbe veramente successo se Harley e Eliel non fossero tornati. Fino a quel momento aveva delegato le scelte più difficili alla donna, che era l'unica che si muoveva con disinvoltura in quella terra ostile. Anche se fossero riusciti a raggiungere la fortezza della solitudine, cosa avrebbero fatto una volta giunti là? Rod scivolava sulla sabbia della piana isolata senza lasciare traccia, silenzioso come un messaggero di morte. Si muoveva solo quando calava il buio, non gli imponeva la sua natura. Le ombre perdevano potere quando c'era luce, fosse pure quella tenue grigia che ammantava notturno durante il giorno. I suoi occhi, senza pupille, erano in grado di distinguere ogni più piccolo particolare, anche nelle tenebre più fitte. Ma c'era qualcosa che non andava. Se ne era accorto appena si era messo alla ricerca del gruppo che aveva attraversato le linee dell'esercito di Dama. Già il fatto che non li avesse avvertiti avvicinarsi era sorprendente, ma si era concesso una giustificazione riflettendo sull'enorme quantità di potere scuro in gioco sulla piana isolata, oltre al grandissimo numero di creature che le brulicavano attorno. Sì, poteva darsi che anche a un cacciatore inesorabile come lui potesse sfuggire un piccolo gruppo di persone. Ora però le cose stavano diversamente. Lui sapeva che erano passati, conosceva il loro odore, oltre che la traccia inconfondibile del potere oscuro che uno di loro covava dentro come un uomo malefico. Eppure non riusciva a trovare la loro traccia. Non era possibile, a meno che non ammettere la presenza di una mano molto abile e molto potente. Aveva la sensazione, che piano piano si stava trasformando in una certezza, che un sortileggio fosse all'opera. Questo contribuiva a rafforzare la sua ipotesi che il gruppo fosse protetto da Shaltui, che fosse uno stiletto avvelenato che l'evocatore stava infilando nel fianco del suo padrone. In ogni caso c'era qualcosa di strano. Lui non era un negromante, ma una creatura delle tenebre. Non manipolava il potere oscuro, ma era intriso in tutta la sua essenza, fin dentro le ossa. Sapeva, sentiva, quando un'altra creatura delle tenebre era all'opera. E in quel caso aveva la netta sensazione che il transito attraverso la linea dell'esercito senza essere visti né uditi, la mancanza di odore, non fosse opera di un uomo che manipolava il potere oscuro. Eppure quelle che aveva trovato quando aveva postato le 15 della serva erano tracce umane, tutte e quattro, un altro mistero. Si impose di valutare la situazione da un altro punto di vista. Continuando per quella strada non sarebbe giunto da nessuna parte e rischiava di perdere in maniera definitiva i quattro fuggitivi. No, se non riusciva a trovare le loro tracce doveva seguire i loro pensieri. Cosa c'era a nord della piana isolata che poteva interessare Shaltui? Sul momento non gli venne in mente nulla. Il nord era pressoché disabitato. Si faceva eccezione per qualche sparuto insediamento umano qua e là e stentava persino a garantirsi la sussistenza. Ma forse loro non si stavano dirigendo a nord. La sua mente astuta si illuminò all'improvviso. Tracciando una linea di aria che partiva dalle pendici della selva Atra, dove aveva scoperto le tracce di Brut, passava per le linee dell'esercito dei negromanti e si dirigeva verso nord-ovest. C'era un solo posto che lui conoscesse e dove avrebbero potuto recarsi: la fortezza della solitudine. Ora capiva molte cose. Shaltul aveva tentato di assediare la fortezza molti anni prima, ma aveva fallito. L'esercito di Vama aveva frustrato le sue ambizioni e respinto i suoi assalti facendogli mordere la polvere in più di un'occasione. Poi l'Orbo, in apparenza, aveva rinunciato ai suoi propositi. In realtà, probabilmente, aveva seguito i suggerimenti di Nerot, che gli aveva consigliato di essere paziente. Aveva lasciato che passassero lunghi anni e che la cosa fosse dimenticata. Poi aveva usato una tattica basata sull'inganno, fingendo di attaccare da tutt'altra parte. Ma dietro le quinte il piano continuava ad essere lo stesso, solo perseguito con mezzi e tattiche diverse. Shaltul voleva mettere le mani sull'Ineros incatenato, ora sarebbe dovuto cercare i quattro. La notte terminò senza che né Arla né Eliel tornassero. Tom si riscosse, tentando di svegliare le gambe addormentate. Il fatto che non avesse fatto ritorno con i divoratori riuscì a consolarlo solo in parte. Erano vivi, sì, ma solo. Diana emise un lamento che lo allertò. Guardò la ragazza. Aveva uno smorfio di odore di pinta sul viso e si era portato le mani sul petto. Non era un buon segno. «Tutto bene?» le chiese, passandole con delicatezza la mano tra i capelli. Temeva la risposta. «Mi fa male», mormorò lei senza riuscire neppure a sollevare la testa. vedrai che passerà, gli disse, non troppo convinto. Stamattina ti senti sempre meglio, no? Diana scossa la testa in un lieve cenno di diniego. In effetti aveva un pessimo aspetto, non la vedeva così da quando l'ho lasciata la bocca delle tenebre. Stanotte non ho sognato, disse la ragazza, trattenendo a stento una smorfia del dolore. Non capisco, cosa c'entravano i sogni con il dolore? Da qualche notte sogno una mano calda che mi tira fuori il dolore della pancia. Tom impallidì a quelle parole. Una mano luminosa che prende quello che ho dentro e lo tira fuori un po' alla volta, lasciandomi stanca, ma senza sofferenza. Stanotte non l'ho sognato. Una mano? E non hai mai visto a chi appartiene? No, la luce è solo sulle mani, il viso è sempre avvolto dalle ombre. Esitò. Ma tanto è solo un sogno, no? Tom ammì, e non poté fare a meno di ripensare alle mani di Arla, protese dal suo stomaco di Diana che espandeva in una luminosità verdastra. L'aveva vista il primo giorno che l'avevano incontrata, e dopo il momento la ragazza era stata meglio. Forse la donna ripeteva quel gesto ogni notte, ed era per quello che la mattina Diana si svegliava spossata, ma senza dolore. Ora, la prima notte che avevano passato senza la donna, Diana era tornata a peggiorare rapidamente. Senza Arla, forse la ragazza non sarebbe riuscita ad arrivare viva fin lì, e questo rendeva necessario raggiungerla più presto. D'altra parte, significava che Arla aveva dei poteri di quali non aveva parlato loro, e questo la rendeva pericolosa. Comunque stessero le cose, non potevano rimanere lì. Era doppiamente rischioso, perché era un territorio occupato da divoratori che potevano tornare da un momento all'altro, perché ora le condizioni di Diana avrebbero con ogni probabilità cominciato di nuovo a peggiorare. Si alzò, spostando con delicatezza la testa della ragazza, e si affacciò dalla fessura nella quale aveva trovato rifugio. La piccola vallata sotto di loro era deserta, non si udivano più. Non sapeva se i divoratori emettevano quegli agghiaccianti urlati solo quando erano a caccia di una preda. Il fatto di non sentirli significava che non erano vicini, oppure che non erano in caccia. Questo rendeva forse un po' più semplice la loro fuga. Cercò di orientarsi prendendo come punti di riferimento le cime delle colline e qualche grande roccia. Sì, sarebbe stato in grado di continuare a procedere verso la fortezza. Si chinò per aiutare Diana ad alzarsi e raccolse l'opera e la spada, le uniche cose che possedevano attorno, insieme alla mappa e al libro che aveva in tasca. Si avviarono lentamente lungo il crinale polveroso, raggiunsero l'avvallamento che cresceva tra le due colline e cominciarono la salita. Procedevano ad agio, un passo dietro l'altro, con Diana che appoggiava la parte del suo peso a lui. Quando giunsero alla cima della collina di fronte, si fermarono e Tom ne approfittò per tentare di orientarsi meglio. Fece sedere Diana, usò la spada e prese la mappa di casa. Si rese conto che non era abbastanza dettagliata da fornirgli dei punti di riferimento, ma in qualunque caso sembrava che stesse procedendo nella giusta direzione. La fortezza della solitudine sorgeva sulla cima di un picco isolato e presto avrebbero dovuto giungere abbastanza vicino a vederla. Ripiegò la mappa e fece per rimettere in tasca quando le sue orecchie vennero ferite da un suono lacerante, quasi una sirena posta proprio dietro le sue orecchie. Barcollò stordito, scivolò perdendo l'equilibrio. I sassi sotto di lui non lo trattennero, una piccola frana lo trascinò giù per qualche metro. Si aggrappò a una roccia sporgente e tentò subito di alzarsi. Non vedeva Diana, ma la sentì lanciare un grido. Si doveva essere spaventata vedendolo cadere. Stava per dirle qualcosa per assicurarla quando le sue narici vennero ferite da un fetore di morte e putrefazione, simile a quello che aveva sentito attraversando l'accampamento dell'esercito dei romani. Un tratto capì anche l'origine del suono che l'aveva distordito. Era l'ululato di un divoratore. Lottò per tornare su e guadagnò qualche metro aiutandosi con le mani, affondando le unghie nella terra. Un nuovo, potentissimo ululato lo investì in pieno e rischiò di farlo cadere di nuovo all'indietro. Si aggrappò con forza e tornò a vedere Diana. La ragazza aveva fatto qualche passo nel tentativo di fuggire, ma doveva essere stata raggiunta subito. Ora giaceva a terra e un divoratore l'aveva afferrata da un braccio, tentando di trascinarla via. «Lasciala!» gridò Tom con tutto il fiato del corpo. L'essere si girò verso di lui e mise di nuovo il suo suono agghiacciante, a un volume insopportabile. Tom si rese conto di aver commesso un errore. Spaventato dal fatto che il divoratore avesse preso Diana, aveva attratto la sua attenzione troppo presto. Ancora non aveva raggiunto la cima della collina, e un equilibrio stabile, ma soprattutto non aveva raccolto la spada. Tentò di rimediare al proprio sbaglio, gettandosi sull'arma che era appoggiata a una roccia a meno di un paio di metri da lui. Ma aveva sottovalutato la velocità del divoratore, che, indovinate le sue intenzioni, si accucciò e balzò verso lui come un lupo. Nonostante la spada fosse più vicina a lui che alla creatura, non fece in tempo a raggiungerla. Il divoratore si avventò sopra e con un potente colpo sferrato con la mano attigliata la scagliò lontano. Tom vide l'arma sparire giù per il fianco della collina e un condannato osserva il suo ultimo tramonto, invogliato dalle tenebre. Il divoratore ruggì di nuovo e questa volta era evidente una nota di trionfo. Lo scrutò con le sue pupille biancolate mentre digrignava i denti affilati come lame. Il liquido nero che gli colava dalla bocca sembrava aumentare, come stesse già assaporando la loro carne e il loro sangue. Tom si mise in posizione di guardia, stringendo i pugni e preparando a battersi. Si sentiva goffo. Anche con la spada in mano le sue possibilità di sopraffare quel mostro però c'erano quasi nulla. A mani nude erano persino ridicolo il pensiero. Ma finché aveva una goccia di sangue in corpo avrebbe potuto essere piano. Il divoratore parve cogliere la sua determinazione perché si tomò un attimo, continuando a scrutarlo con quei suoi inquietanti occhi bianchi. Sembrava domandarsi perché un uomo disarmato non era fuggito in preda al terrore, lasciandogli la ragazza, con la speranza che il suo sangue lo saziasse e ne brigasse a sufficienza da decidere di non rincorrerlo. A quell'istante terminò, e una smorfia crudele apparve sul viso del divoratore. Aprì la bocca e le zanne affilate sfregarono tra di loro, producendo uno strillo penetrante. Poi avanzò di un passo. Ogni suo movimento sembrava una sfida alle leggi della natura. I tendini che spuntavano dalla pelle mangiata dai vermi vibravano come a cave in tensione, e i muscoli rigidi crepitavano come legna secca. Tom fece appena in tempo ad allargare le gambe per rendere più stabile la sua posizione. Che il divoratore compì un balzo e coprì in un solo istante tutta la distanza che li separava. Le mani artigliate lo afferrarono alla gola e il peso lo trascinò a terra. Una goccia di bava nera scivolò dalle labbra e gli rotolò sul viso, bruciandolo come acido. Le zanne si avvicinarono mentre la stretta sul collo gli impediva di respirare.